un grande salto, è come una tempesta di vento. Amore è un grande temporale, che non è vero che non fa male. Amore, tu sei qui con me, tu sei qui accanto a me, in ogni istante del giorno. Amore, sei vicino a me, sei vicino a me, nel dolore e nel pianto. Se tu mi fossi ancora accanto, questa vita non sarebbe di cemento. E se sfiorassi la mia pelle, potrei fermarmi e guardare le stelle. Ma adesso tu non sei qui con me, tu non sei accanto a me, e tutto il resto non conta. Adesso tu non sei qui con me, tu non sei accanto a me, nel dolore e nel pianto. Non dirmi che un sogno proibito averti qui, che il tempo cancella i nostri ricordi. Non mi lasciare mai, ma chissà dove sarai, in quale parte del mondo, in qualche parte del mondo. Che conta sono i tuoi capelli, e non guardarmi con quegli occhi chiari, che nella notte no, non sono uguali. Ma amore, tu non sei qui con me, tu non sei accanto a me, e mi sento morire. Amore, tu non sei qui con me, tu non sei accanto a me, nel dolore e nel pianto. Non dirmi che un sogno proibito averti qui, che il tempo cancella i nostri ricordi. Non mi lasciare mai, ti prego non mi lasciare mai. Ma chissà dove sarai, in quale parte del mondo, in qualche parte del mondo. Che parte del